questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Marco Piantanini, autore di questo programma, è rimasto a Milano. Finalmente sì, posso abbracciare di persona per la prima volta nel 2014. Ah, è vero, è vero. Il mio amico Pierluigi Pardo. Ma eri tu in ferie, eh? Io ero qui chiodo a lavorare, a produrre. Tutti convocati. Però, ecco. 800 24 00 24, un numero verde, anche se noi non siamo a Milano. Fai la telecronaca di quello che vedi. Siamo a Firenze, c'è il passaggio di alcune modelle, poi ci sono dei signori imbacuccati, c'è uno con il cappello, ci sono delle borse, ma non posso dire il brand. Poi c'è un altro, sì, ecco, allora. Sull'Audi destra si porta il classico intellettuale radical chic, poi attenzione, quello sembra uno stilista, quello potrebbe anche essere uno stilista, quello no, però magari non bisogna giudicare dalle apparenze. Poi ci sono anche dei giapponesi che non sono da Honda oggi, sembrerebbero giapponesi, magari sono coreani, chiediamo scusa. Dopo ti faccio sentire le rispettive ambasciate. Oggi sì. Presentazione in Giavisione, era tutto l'intero Giappone, mondo, tutto il mondo orientale collegato per la presentazione. E poi qui c'è una squadra straordinaria che sta lavorando. Ecco qui sull'Audi destra, signori con il cappello, vedi in questo momento la radio non rende, signori con il cappello all'inglese, un signore che ci saluta, salve, ciao. Dica, ecco. Allora, tutti convocati qui in studio per voi che siete a Firenze, 800 24 00 24, per voi che non siete a Firenze, se venite qui vi ospitiamo in studio, vi facciamo parlare anche della Fiorentina se volete, Fiorentina che gioca stasera. E fra poco arriva anche un'invasione di campioni e simili, happening, sì, totale. Happening. Questa è l'ultima puntata che facciamo, poi ci cacciano via, lo sai, sì. Sì, siamo pronti. Andiamo a lavorare per De Laurenti, tanto abbiamo già il contratto, no? Beh, vabbè, ma adesso non diamo subito questi dettagli. Manteniamoci sul vago. Ecco, avremo De Laurenti in diretta presto da Los Angeles. Ieri mi è stato scritto appena prendiamo un paio di giocatori. Sì, beh, questo può essere. Perché insomma, devo uscire dal tubo? No, perché evidentemente il tuo audio non esce benissimo, comunicazione di servizio che diamo, ma insomma la salutiamo. Senti, salutiamo. Parlami dell'Inter, bella signora. Beh, l'Inter, insomma, mi sembra che si sia un po' inabissata. I numeri delle ultime sei partite sono numeri inquietanti. La squadra fra le prime sei che ne ha fatti nettamente di meno, cioè sei, una sola vittoria, quella del derby contro il Milan, e tiri in porta pochissimi. Ecco, la cosa che mi sembra inquietante dell'Inter è che in alcune partite l'abbiamo vista anche pericolosa dal punto di vista offensivo, ma un po' in difficoltà dietro. Penso a Inter-Parma, penso per esempio a Napoli-Inter, con delle amnesie clamorose. Poi questo aspetto è stato sistemato nelle partite. Posso dire che l'Inter è scarsa? Posso dire che è una squadra per l'alto livello, è una squadra qualitativamente scarsa? Beh, perché secondo me è così. Beh, è una squadra che sta secondo me dove deve stare in classifica, sinceramente, cioè al quinto-sesto posto. Ecco, insomma, poi magari supererà il Verona sicuramente, però mi sembra che forse l'entusiasmo all'inizio stagione forse era eccessivo. Merito di Mazzarri che all'inizio è riuscito a dare una scossa di adrenalina impressionante a questa squadra, però adesso mi sembra che siamo di fronte a una crisi di crescita e la vera domanda è se Toir caccia i danni. Ma dov'è? Ma scusami, quello che non capisco io è, allora, la prima mossa di mercato che doveva fare Toir era presentare il suo rappresentante in Italia, no? Cioè, l'uomo forte della presidenza, quello che doveva fare il mercato, quello che doveva anche tenere buona l'opinione pubblica, doveva chiarire i programmi. Invece io vedo un sacco di punti interrogativi intorno ad ogni discorso sull'Inter. Non si capisce innanzitutto che sia l'uomo forte dell'Inter in questo momento. Abbiamo visto anche da te a Tiki Taka un'intervista a Moratti, l'abbiamo visto ovunque, abbiamo visto 100 interviste a Moratti, però Moratti non è più il presidente. E allora la domanda è: chi comanda all'Inter in questo momento con Toir che sta a casa sua? È un buon tema questo, anche perché poi lo stesso Toir, insomma, se avete letto sui giornali di oggi, si fa capire che la lontananza, sai, è come il vento, no? Era così, più o meno. La lontananza sta pesando, evidentemente. Esistono dei segnali e dei provvedimenti anche forti che un presidente può prendere in termini di carisma, di adrenalina, di rapporto con i calciatori, di stimolo, che chiaramente se sei più vicino puoi fare con mezz'ora di macchina. Se invece sei dall'altra parte del mondo sono più complicati. Quindi questa è una chiave. Anche però, se non capisci niente di pallone è più complicato. Ecco, però no? secondo me il punto di partenza è che forse l'Inter si era entusiasmato un po' troppo all'inizio, in maniera giustificata, perché giocava veramente un buon calcio. Insomma, io mi ricordo sempre quell'Inter-Juve della terza giornata, se non sbaglio, certamente, che aveva dato veramente la sensazione, l'illusione per i tifosi dell'Inter che un certo tipo di distanza fosse stata ormai colmata. Antonio su Twitter ci dice: se l'Inter doveva giocare così male, tanto valeva tenersi stramaccioni, non trovate? No, io non trovo, non perché, trovo nemmeno io, perché quello che è successo nella seconda metà del campionato scorso è stata una caduta libera senza precedenti. Sì. Questa è un po' un vivacchiare, un limbo, sì, sicuramente non esaltante. Allora, Mazzarri poteva avere la bacchetta magica, ha trasformato in giocatori di calcio quelli che non sembravano giocatori di calcio. Jonathan, insomma, i nomi li sappiamo tutti, Alvarez, sembravano tutti dei fenomeni. Adesso, ovviamente, a medio termine, i limiti di questi giocatori sono oggettivi, stanno venendo fuori. Adesso si parla, secondo me l'Inter avrebbe bisogno di un attaccante come prima cosa, perché ha solo... io voto come miglior giocatore del campionato nel rapporto qualità-prezzo, non per quanto costa. Allora, prima dell'inizio della stagione non ricordo in quale sondaggio di quale radio o televisione davanti, poveretto, fa l'inferno. L'avevo pronosticato capocannoniere. Insomma, al momento Giuseppe Rossi sappiamo che ha altri problemi, gli facciamo grande in bocca al lupo, ne parleremo. Poi, insomma, il fatto che siamo a Firenze rende questo ancora più sentito, se possibile, dal punto di vista psicologico in queste ore. Però ecco, sicuramente un attaccante, c'è la grande incognita Milito che è appena tornato. C'è, secondo me, in generale, però, una pochezza dal punto di vista proprio della qualità del gioco. Se c'è una cosa veramente brutta delle ultime due partite, anche del derby vinto, paradossalmente, è la quantità di tiri in porta, che è veramente sono il prodotto di una squadra che non ha qualità. Cioè, mi sembra un sillogismo calcistico: non hai qualità, non riesci a tirare in porta, non riesci a costruire, hai un solo attaccante bravissimo che si danno l'anima là davanti, e poi gli altri, uno va bene per il rotocalchi rosa, l'altro sei cattivo, dai. No, è vero, perché io non dichiaro pubblicamente per ora non dà traccia di sé, come atteggiamento. Io fossi presidente dell'Inter, cioè Toir, l'avrei già appeso per le orecchie. Sì, facciamo le orecchie, che mi sembra anche più radiofonico. Esattamente, orecchie, esattamente. No, ma è così, insomma, l'altro non si conosce, non si capisce, non si sa bene chi sia, cioè Belfodil. Milito, poveretto, è appena rientrato, ha 80 anni, quindi l'Inter secondo me ha bisogno di un attaccante. Si dice Osvaldo, potrebbe essere un'idea. Beh, Osvaldo può essere un'idea, dipende anche come vuoi giocare, è chiaro, dipende soprattutto quanto credi al ritorno di Milito, perché se credi al ritorno di Milito, a quel punto puoi concentrarti su altri reparti, e Milito Palacio potenzialmente è una grandissima coppia per come è assortita. Sì, è chiaro che se non ci credi Milito idolo, ma come fai a credere in un giocatore che ha quell'età e che è riduce da così tanti infortuni? No, certo, questo è evidente, ma infatti c'è una pochezza, una difficoltà enorme. Se c'è una cosa sicuramente che va sottolineata è che il mercato di quest'estate ha portato poco. Ci sono stati gli infortuni sicuramente, ma insomma anche all'inizio, quando non c'erano gli infortuni, l'unico vero titolare dell'Inter di quest'anno era Campagnaro dei nuovi, che è un fedelissimo di Mazzarri. Beh, un buon giocatore, è un fedelissimo di Mazzarri, era uno, però questo ti dice che insomma evidentemente alcune cose sono state sbagliate. E poi so che potrà sembrare una roba da avvocato di Cassano, quello che invece risponderei più che stramaccioni è: ma se doveva giocare così l'Inter era meglio tenersi Cassano, sinceramente, perché comunque almeno in qualche partita la scintilla l'avrebbe sicuramente accesa. Ma certamente, ma Cassano era forse l'unico giocatore che l'Inter doveva tenere, una squadra così poco qualitativa era l'unico giocatore che doveva tenere. 8-0-0-24-0-0-24, abbiamo il traffico, e poi, sentiamo onda in giapponese. Sì, sentiamo onda in giapponese, sì. Dai. Sì. Tutti convocati. Pensato di tenergli la maglia assolutamente al numero 10, a cui lui teneva molto. C'è poi una storia molto bella, molto carina, incredibile, in cui lui da ragazzo sognava di diventare giocatore del Milan con la maglia numero 10. Occhio al movimento di Onda, Tosic per Onda, posizione regolare, Onda! Keisuke Onda! Anche Honda con Spirito Samurai potrà lasciare un qualche segno importante al Milan. Molti colleghi giapponesi hanno detto Honda porterà nel Milan e nel calcio italiano lo Spirito Samurai. Ci può spiegare che cos'è? I never meet a samurai. Chissà quante volte l'hai ballata continuo a ballare, la balleremo anche stasera qui al Pitti direttamente con tutti gli stilisti, no? Quando sfili? Non mi ricordo più. Io sfilo fra le taglie forti, quindi sfilo fra le 4 e le 5, tutti invitati a vedere la sfida dei momento hardcore. No, c'è sognava questa capacità il Milan, ma dai, no, dico in generale c'è questa capacità del Milan, secondo me, in particolar modo di trasformare ogni presentazione in evento. Ci fu quella di Beckham straordinaria, un po' il Milan che cerca dei giocatori commercialmente molto forti, con un'immagine molto forte o molto potenziale. Salutiamo intanto fuori dalla vetrata. E poi vabbè, che Onda da bambino sognarsi di diventare giocatore del Milan, insomma, sai, sono quelle cose, sono quelle piccole bugie, insomma, che non fanno male a nessuno. No, però fanno molto ridere. Cioè, a me fanno molto ridere. Io sognavo di condurre tutti i convocati su Radio 24, sì, voglio dirlo, insomma, avevo proprio voglia. Cioè, no, io volevo fare pilota del moto mondiale, non sono riuscito. Cioè, la vita è lunga, insomma, ci sono ancora un messaggio. Allora, ma una ragionevole la dite oggi, scrive Ulisse? No, perché aspettiamo te all'800 24. Adesso non mi entrare in polemica. No, ma non faccio in polemica. No, voglio sapere, voglio sentire una ragionevole da Ulisse, non è mica polemica. No, ma dall'Inter al Milan, da Firenze, da Pitti. Sì. Saltiamo un naviglio, metaforicamente, cosa... Allora, al di là delle magliette vendute, sul campo, Onda al Milan può dare qualcosa, e Onda al Milan può essere una pedina per il futuro, perché il discorso, secondo me, a questo punto è proprio questo, no? Cioè, che cosa sarà del Milan oltre che dell'Inter? Perché mi sembra che a Milano, se guardi Milano da lontano, c'è un grandissimo punto interrogativo... rosso, nero, azzurro sopra la città. Sì, e c'è anche un po' di depressione in generale, sì. Perché comunque, insomma, c'è nebbia, se vuoi, metaforicamente, la nebbia che è sparita negli ultimi anni da Milano, però insomma evidentemente in questo momento dal punto di vista calcistico c'è. Io penso che Onda sia un ottimo giocatore, lo dico, l'ho visto spesso seguendo il calcio internazionale, è un calciatore importante. In Giappone è considerato, devo dire, 2-3 anni fa soprattutto, era considerato un po' il giocatore più talentuoso, quindi è, secondo me, è un acquisto di grande livello. Poi che insomma, in assoluto, il Milan di qualche anno fa poteva permettersi altre cose che non sia Ibrahimovic, tanto per fare l'ultimo grande colpo del Milan, e probabilmente nemmeno Balotelli, per le aspettative che c'erano l'anno scorso nei confronti di Balotelli come peso, come importanza specifica, questo è vero. Ma è un buon giocatore, è un giocatore che secondo me a questo punto chiama per un 4-3-2-1 o un albero di Natale, per giocare vicino a Kakà alle spalle di una punta centrale che inevitabilmente dovrebbe essere Balotelli. Mi sembra che il tridente del Milan sia una cosa, Pier, secondo te, allora, adesso che Allegri si è auto fatto fuori, cioè ha dichiarato che non sarà più allenatore del Milan, andrà avanti a giocare con il modulo presidenziale o potrebbe sentirsi libero di provare qualcosa di diverso? Ma ieri, se non sbaglio, ieri Sconcerti ha parlato della libertà adesso di Allegri, sì, soprattutto dal punto di vista mediatico, no? È un po' come quando vivi un rapporto adesso bello. È pericoloso, scheggia impazzita forse. Beh, vabbè, insomma, non è che la carriera di Allegri è finita oggi, quindi è ovvio che ognuno di noi è responsabile delle proprie azioni, e le proprie azioni possono portare a un beneficio o a un problema, quindi insomma non è che è finita, non è che va a fare il pescatore o va col barchino. Certo. Quindi è chiaro che col gommone, col gommone. Beh, io sono gommonista, però lui credo sia lui gommone pure. Sì, ha detto, non ti ricordi quello. Però a Livorno si dice il barchino. Vabbè, comunque, 60 insomma, anni, non faccio l'opinionista televisivo, vado a prendere gommone. La sostanza. Siamo un po' in un acquario, perché ci guardano da fuori, li salutiamo e sembriamo tipo dei pesci. Buonasera anche a lei. No, quindi sicuramente secondo me continuerà per il meglio. Io credo sia molto motivato, voglia finire bene questa stagione. Il suo futuro dipende da come finirà questa stagione. stagione, insomma, il calcio è materia liquida, come diciamo spesso. Se Allegri finisce questa stagione in maniera più che dignitosa, fra 4 mesi la sua immagine è sicuramente migliore. Beh, rispetto ad adesso ha un buon credito, insomma, sì, ha un buon credito, ma un credito che sia un po' appannato negli ultimi tempi, quindi io penso che farà quello che vuole fare. Io non credo che non ci siano dubbi da questo punto di vista. Arriva il tweet ufficiale del Bologna, che già sapevamo, insomma, che Ballardini. Sì. Ballardini, un tributo al grande Lucio Dalla. Che storia però questa, con, ti ricordi la vittoria prenatalizia del Bologna con Diamanti che esce, sì, quelle cose, eccetera. Col Genoa. Feste di Natale, cambia già tutto, ma era già tutto previsto. Chi la cantava? Che cosa? Era già tutto previsto, certo, cantava il grande, indimenticabile, straordinario, era già tutto previsto. Voglio che sia tu a dirlo, non voglio toglierti. Alda Novara, lo dice lei. Sì, esatto. Ciao. Intanto per l'anno appena arrivato e anche complimenti per la trasmissione, la seguo quasi sempre. Io volevo fare una piccola domanda. Questo quasi però che non va bene, che cosa fa nei giorni? Prego Alda, scusami. Allora, volevo fare una piccola domanda. Mi chiedo molto spesso quando i nostri giocatori, per esempio nel caso di Kaká e anche di Sheva, appunto, che giocavano nel Milan, vanno all'estero, appunto in Inghilterra, nel Chelsea, come il caso di Sheva, e fino alla carriera di questo calciatore. Pare che vanno praticamente nel buio questi calciatori italiani quando si trasferiscono all'estero. La stessa cosa è successa anche a Kaká nel Real Madrid, che non ha fatto niente, è rimasto in panchina. Sì. Quindi volevo fare questa domanda: perché succede questa cosa che sono allenamenti diversi, perché vanno nel buio? Shevchenko si trova in finito la sua carriera quando ha raggiunto il Chelsea, infatti quando è tornato nel Milan non ha fatto più niente. Era finita lo stesso, perché poi è tornato nel Milan, non ha combinato nulla di buono. Però l'osservazione è interessante. Certamente all'estero si gioca e ci si allena in maniera diversa. Curioso anche notare come questo sia spesso accaduto in uscita dal Milan. Infatti non a caso hai citato due giocatori che sono usciti dal Milan per un sacco di soldi. Questi sono stati forse i più grandi affari fatti da Galliani, certamente al capitolo uscita. Poi c'è una differenza sostanziale, perché insomma Kakà è andato via dal Milan e aveva dei problemi fisici, pubalgia, lo sappiamo tutti. Poi al Real Madrid non ha avuto grande salute, non ha avuto grande fortuna, non ha avuto grande fiducia. Anche qui c'è un denominatore comune che si chiama Mourinho, tra Shevchenko e Kakà. Kakà invece è tornato, secondo me non è in grado di giocare con continuità ad alto livello per un grande numero di partite. Infatti prima di Natale si era già un po' spento, però lampi di classe, suggestioni, emozioni, gol 100-101, sì. Non so se hai altre spiegazioni. No, Kakà sta facendo, qualcosa di clamoroso. Io onestamente ero abbastanza ottimista, ma non pensavo. Ma perché deludono gli ex del campionato italiano che vanno all'estero? Questo capita spesso, sta succedendo anche ad Osvaldo, succedendo alla Mela. Sono storie diverse, potremmo anche essere così un po' spinti dalla suggestione che il nostro calcio è più facile, quindi quando vai fuori. Io non credo sia un fatto di facilità però ha ragione, perché è successo a tanti. Sì, ma io credo che sia un fatto di caratteristiche. Credo che sia veramente quasi uno sport diverso. E chiaramente in questo momento noi non abbiamo la qualità che c'è da altre parti, non abbiamo la qualità media diffusa che c'è nel campionato inglese, però credo che alcune cose del campionato inglese sono probabilmente peggiori del nostro. Ad esempio una certa attenzione difensiva, si vedono dei gol. In Germania, dove si gioca un gran calcio, delle volte si vedono ancora dei gol abbastanza assurdi, abbastanza ridicoli. Ma guarda, Piero, ho sempre l'impressione che all'estero si giochi, cioè io paragonerei il calcio all'estero come un 1500, no? Nell'atletica. Nel calcio italiano invece si giocano sprint ripetuti e il gioco si ferma molto più spesso di quanto non accade in Spagna, in Germania, in Inghilterra, in Francia. Sì, sì, è vero, e poi bisogna vedere l'intensità degli sprint. Io credo che in Italia si speculi troppo. Questa è la mia idea, cioè secondo me stiamo facendo un discorso proprio da fantacalcio. Noi negli anni 90 siamo stati migliori al mondo, migliori in Europa. Il nostro campionato era il campionato che era il punto di riferimento. Oggi sicuramente ci sono i problemi economici, dal punto di vista tattico, quindi per le variabili che noi possiamo controllare, secondo me il nostro calcio continua a essere molto bello, è un calcio molto tattico, siamo i maestri della tattica, non a caso continuiamo a esportare grandi allenatori in giro per il mondo, e questo forse delle volte ci porta, forse non ce lo possiamo più permettere a livello internazionale di speculare sempre, cioè dovremmo tornare a giocare un po' di più a pallone. Secondo te, salto di palo in frasca, poi vado da Treviso da Santo. Spalletti torna? Oggi abbiamo letto questa intervista, tra l'altro ieri qui, Spalletti era sì, qui sì, a sì. Pitti, oggi non c'è, dov'è? Dove sta? Vabbè, adesso andato via. Sarà a casa sua. Torna Luciano, in Italia? Se ci senti, chiama. Ha detto che gli piacerebbe aprire il nuovo ciclo rossonero e dare consigli a Mario, l'ha detto in maniera molto chiara, molto precisa, e quindi questo credo sia assolutamente il... L'ha detto, insomma, l'ha fatto capire. Insomma, l'ha detto. Santo da Treviso, insomma, l'ha detto anche lui. Credo che Spalletti, scusami, Santo, sia sufficientemente smaliziato, conosce i meccanismi mediatici per capire che, evidentemente, se lui dice anche una mezza frase in un momento come questo, può essere interpretata in un certo, certo, modo. Santo? Sì, salve, buongiorno a tutti. Salve. Allora, sono un grandissimo tifoso della Fiorentina, difatti vi chiamo spesso per sapere delle opinioni riguardo alla mia squadra. Volevo sapere, allora, volevo chiederle due cose. Allora, se secondo lei era d'accordo ad un eventuale, ma sarà difficilissimo, ritorno di Jovetic a Firenze, e dopodiché se secondo lei si poteva giocare con un tridente con Rossi, Jovetic e Mario Gomez, se era possibile. Queste tra le varie ed eventuali. Guardi, Santo, abbiamo la borsa in linea, però per rispondere alla prima domanda, purtroppo non, fantacalcio, Rossi, non lo facciamo noi. Sai chi ne ha parlato, Montella, del ritorno di Jovetic? Sì, sì, sì. Sentiamolo. L'ipotesi di un ritorno di Jovetic è fantascienza oppure siamo nel campo della scienza? È infortunato, mi sembra, no? Quindi prendiamo anche lui, siamo a posto. Però è fantascienza, però poi guarisce lui, perché lui ha un altro, voglio dire, un infortunio non mi sembra lungo. È fantascienza o siamo nel campo della scienza? No, credo che siamo nel campo della scienza. Ah, della scienza, non della, cioè, fantascienza. No, ci ho capito bene la domanda. Infatti ho cercato di sorprendervi così, col tono di voce sembrava il contrario, però il contenuto era quello che ho detto. Fantastico Montella qui, fantastico. No, no. Scienzo fantascienza. Grande contropiede montelliano. Per me l'ipotesi più semplice rimane Quagliarella. Certo. Perché Quagliarella deve giocare, perché Quagliarella è forte. Mi sembra anche sappiamo. La più intelligente calcisticamente. Bisogna vedere cosa vuole la Juve, perché chiaro, se la Juve vuole lo scambio con Quadrado, a quel punto Fiorentina magari va a cercare fuori. Però... Ma non, la Juve non può pretendere a luna, Quagliarella è in esubero, Piera. Sì, sì, è in esubero, però insomma voglio dire, è comunque un valore, la Juve cercherà di monetizzarlo questo valore, giustamente dal suo punto di vista, no? Credo sia nella logica delle cose, però ecco, secondo me ci sono soluzioni un pochino più semplici e quella che mi ispira di più è proprio Quagliarella. Allora, borsa Clydeck da Ferrara, spero di aver pronunciato il nome correttamente. Tutti convocati. Fantastico, stare in esterna perché succedono delle cose mirabolanti. C'è Gettelestro torna, dopo torni. Buongiorno a tutti gli appassionati di sport. Com'è il soundcheck della tua Roma? Sei preoccupato? Ma non sono preoccupato. Purtroppo non ho visto la partita con la Juve perché suonavo, però ricevevo messaggini da amici disperati. Bene, come quindi, è andata? Quindi arrivava, beh, è andata male. No, però è arrivato Nainggolan, che insomma anche psicologicamente è stato un grande acquisto per cambiare subito gli umori della piazza. Sì. E per tornare a metafore musicali, mi sembra che l'orchestra di Garcia sia un'ottima orchestra, no? Mi sembra che sia arrangiata molto bene, solo che poi gli arrangiamenti vanno suonati anche. Sì. Fino ad ora ha suonato ad altissimo livello, dai, della Roma potevi aspettarti. Mi piace moltissimo la squadra, mi piace lo spirito, mi piace proprio anche il fatto che sono quest'anno, come dire, puntano al gioco, al movimento e anche a divertirsi un po' di più. Sì. Senti, sì. Ma se Totti fosse un musicista, chi sarebbe? Beh, Totti sarebbe una specie, un piccolo Miles Davis sicuramente. Ah, sì, perché è un creativo, dotato di grandissima tecnica, però la mette a disposizione della squadra, quindi Miles Davis è stato un innovatore per il jazz e per il corso della musica, è un grande complimento. Mentre Falcao, Jobim. Beh, poi ne parlo con Barbara Casini, che è un'esperta di musica brasiliana e suonerà anche qualcosa, quindi Falcao sicuramente è un Antonio Carlos Jobim. Ah. Poi sembra, cosa fai? Presenti i mondiali in Brasile dal punto di vista musicale? Io? Sì. No, assolutamente no. Oggi parleremo della musica brasiliana, oggi e domani, perché qui a Firenze vive questa ambasciatrice della musica brasiliana, che è una delle migliori protagoniste della scena brasiliana italiana nel mondo. Ha scritto un bellissimo libro, quindi parleremo con lei per due appuntamenti di soundcheck da non perdere. Sarà un anno importante per il Brasile. Devo dire, l'anno scorso sono stato per Federation, paese straordinario, eccezionale, ma sono rimasto colpito dalla conflittualità che c'è. Cioè, mi aspettavo un paese molto più vicino allo stereotipo del Toda Gioia, tutti allegri, felici, a cantare, a ballare, a giocare a pallone, a fare il carnevale. Invece, in realtà, insomma, abbiamo scoperto che c'è anche una grande conflittualità in piazza, pesante, insomma, che ci sono dinamiche da paesi. Sì, sono stati momenti di grande pesanti. Tensione l'anno scorso, col governo. Però si divertono sempre. Sì, ecco, sì, hanno uno spirito molto diverso dal nostro. Beh, ma ne parleremo più tardi. Getti adoro musicalmente, scrive un ascoltatore. Beh, non meglio identificato. Però ha ragione, quel 347, voglio dire. 349-238-6666 per i vostri messaggi. No, pensavo dessi il numero dell'adoratore. No, non lo do. No. Soundcheck, dopo di noi. Dimmi un'ultima cosa. Grazie Roma di Venditti, Inno Storico, eccetera. Non è un'ora di rivisitare un po' gli inni delle... Sì, a me piace molto Pazzare in Caramala, che però... Cioè, musicalmente mi diverte, no, però è proibita. Venditti dovrebbe fare una versione upgrade, dovrebbe realizzare una versione un po' più hip hop, un po' più R&B, un po' più vicina al sound contemporaneo. Sì, poi ce ne sono altri che sono ormai improponibili, secondo me. Di che cosa? Di inni? Di inni, no, ma io conosco solo quello della Roma. Gli altri poi c'è sia Roma Roma che Grazie Roma, perché c'è il doppio inno in realtà. Cioè, sì. Roma Roma è la canzone, diciamo, più struggente, Grazie Roma è più commerciale, no? Dimmi cos'è. No, vabbè, non posso mettere qua davanti al telefono. Poi... Va bene, facciamogli sentire l'accoglienza per Nainggolan, a GG, sentiamo. È un'accoglienza misurata, sobria, abbastanza romana. Sentiamo. Cacio e pepe. Sì, non mi parla di cacio e pepe, non è che pranzato, poi sai che io faccio una battaglia da anni per la cacio e pepe, tanto io sono ambasciatore. Allora, soundcheck più tardi, noi lo ascoltiamo da 3:30, giusto? 15:30. 15:20 subito, dopo di noi, te lo ricordi? Sì, certo. 15:20. C'è Getti, ascoltiamo da qua. Dai, sono contento. Grazie davvero. Grazie a voi, grazie a voi. Clyde Ferrara, grazie. Clyde, buongiorno. Buongiorno, interista, quindi avrei interista. Una domanda da fare. Io anche due, d'accordo con o anche voi. Tre, cioè, servono tante di domande per l'Inter. Forse sì, io faccio una premessa, mi sembra di tornare all'epoca fra i soli, quindi tremo perché secondo me non arriverà nessuno degli acquisti che sono stati reclamizzati dalla stampa, questa è la mia convinzione personale, quindi rimarremo con quella gente lì e ci sarà da ridere poco. Però io ho una critica da fare, cioè vi ho sentito prima parlare, proprio li avete stroncati totalmente, cioè sembra che siamo terzulti in classifica. No, sono d'accordo, no, io mi dissocio dalla stroncatura totale, secondo me è partita bene e adesso è in difficoltà, insomma non è che c'è molto da girarci attorno e questa classifica secondo me poi corrisponde alla qualità della squadra, quinto, sesto sono posto. Sì. Su questo sono d'accordo. Però ma la misura dell'Inter quale può essere? Quale deve essere? Cioè l'Inter è un grande club, gli interisti si accontentano del sesto posto? Io non mi accontento sicuramente di questa posizione qua, però onestamente questa squadra più di questo non fa, Sì, ma dal mio punto di vista non so come la vedete voi, il problema è capire dove va l'Inter, non è il problema di questo campionato. In questo campionato si sapeva che l'Inter non era da corsa, secondo me nemmeno per il terzo posto, infatti lo stanno dimostrando. Però il problema è capire dove va la nuova Inter di Toir. Sì, e fra l'altro diciamo che se Toir poteva avere anche un po' di ambizione, se fosse stato invogliato un po' di più dalla classifica a investire, cosa che sarebbe successa magari con 5-6 punti in più, tu dici, ma non lo so, ma è chiaro che uno delle strategie le decide prima, però c'è pure c'è anche un fatto proprio logico, oggettivo di dove sei in classifica in questo momento, insomma. Dire a Toir che deve investire, cioè, quanti acquisti devi fare per avere la certezza che l'Inter possa arrivare terzo, per avere un'ottima probabilità a meno 8 in classifica? No, almeno un paio di acquisti così di rappresentanza, un paio di regali all'agente interista, tu nuovo presidente multimiliardario tycoon arrivi e chi porti? Nessuno. cioè non ti dico per quest'anno, ma un paio di tasselli del mosaico del futuro, perché quello che vale per il Milan e per l'Inter, quello che non si vedono, quelli che non si vedono sono i disegni relativi al futuro, e questo secondo me è il problema vero. Non capisco perché dovremmo vergognarci per la vostra campagna anti-juventina, ma abbiamo parlato di Juventus. Campagna anti-juventina? Non so. Io ci posso credere. No, io fra l'altro, cioè, io pronosticavo la Juve favorita prima del campionato, quando era meno 5. Campagna anti-juventina non capisco. Ieri non ho capisco detto perché, ma senza polemica. Che la polemica arbitrale mi sembra assurda. Vabbè. Maurizio. Buongiorno ragazzi. Genova. Buongiorno. Innanzitutto complimenti, e ve li faccio lo stesso anche se perdiamo tempo, però bravi. Grazie. Dunque, tengo per la Samp, così quello che dirò dopo sarà al di sopra delle parti. Dunque, se la Juve giocasse campionato spagnolo con questa squadra che è adesso, ok? O nel campionato inglese, rischia di vincerlo. Capito? La Coppa dei Campioni, i quattro gironi, le quattro più forti, tutto quanto, quello che vuoi, può succedere qualsiasi cosa, e di solito poi, e non sempre, la qualità si afferma. Ma se la Juve, con la sua tattica mentale, della gestione, la sua aggressività, va a giocare in Spagna, li fa fuori tutti. Guarda, io sono abbastanza d'accordo. Io vorrei innanzitutto, e poi passiamo alla serie, che ci cantasse un pezzettino di Lettera ad Amsterdam a proposito di inni delle squadre. Pronto? Sì, sono qui. Vai Maurizio, senza paura, vai. Dove l'inno delle squadre, perdonami, qual è quello dell'Amsterdam? Lettera ad Amsterdam, la canzone della Sampdoria, chissà com'è adesso la domenica. Ah sì, dunque, aspetta, com'è che fa quella della Samp? Dunque, le deserte sono le strade. Oggi Doria giochi tu. Non cerchiate oggi Doria giochi tu. Le bandiere blu cerchiate. Sì. E poi non me la ricordo. Bravo. I colori della nostra società. No, volevo dire questo. Io sono d'accordissimo sulla parte, sul ragionamento, sulla differenza fra Champions e campionato, nel senso che secondo me sono due sport diversi, e per questo motivo è molto difficile sbagliare un pronostico su un campionato, è molto più facile sbagliarlo sulla Champions, perché ha delle dinamiche molto più umorali ed è molto più appesa agli episodi. Sono anche d'accordo. Inghilterra o in Spagna possa essere in grado di vincere il campionato, questo io non lo so. Sicuramente se la giocherebbe, insomma. Se la giocherebbe fino alla fine, cioè farle fuori tutte, come dice l'ascoltatore, non sono così convinto, però certamente sarebbe da corsa. Il campionato spagnolo secondo me è ridicolo, tolte le prime tre in classifica, tra l'altro. Tra l'altro è una bella novità che quest'anno ce ne siano tre e non due. Bravo, perché la Liga sta facendo. Però, visto come sono in questa stagione Barcellona e Real Madrid, la Juventus certamente si giocherebbe il titolo spagnolo, in ipotesi certamente si giocherebbe quello inglese, è certamente una squadra da campionato, è una squadra da lunga distanza, probabilmente non è una squadra da sprint breve. Cioè, l'SMS ha avvistato Toir con un camion fuori dalla binetina, vuole investire, ovviamente è una battuta di un buon tempone. Vabbè. Però no, è la vera domanda, dai, è il vero punto interrogativo che c'è in queste ore, perché insomma così credo che difficilmente l'Inter potrà sognare. Può starci anche, può essere anche parte di una strategia, non investire a gennaio, vedere quello che succederà e poi a giugno. Il problema è capire poi se invece in prospettiva, nel tempo, Toir avrà voglia di investire, perché c'è anche quella voce sull'ordine dato ai suoi collaboratori di richiamare tutti i giovani della cantera e ripartire da lì, no? Questa cosa insomma è una battuta, non si sa quanto battuta e quanto verità, che gira, che sarà attribuita a Toir. Dimmi una cosa prima del traffico, altro tema che poi vorrei affrontare, notizia di oggi, sai che i mondiali in Qatar 2022... Si giocheranno d'inverno? Sì, da novembre a gennaio? Sì, mi sembra insomma è una novità epocale. Sì, novità epocale, però mi sembra una scelta di buon senso. Mi sembra che il mondiale in Qatar sia una novità epocale. Nel senso già il mondiale in Qatar non è una scelta di buon senso, e dunque è stata messa una pezza. Sahel a 57 gradi all'ombra, voglio dire, nella Valle della Morte, come in quel mitico film Vacanze in America, con la sfida nella Valle della Morte fra credo juventini e romanisti. Beh, però, sai, 2022, cioè io non riesco a guardare oltre domani, quando saremo ancora qui da Pitti, certo, sì, con qui, tutti qui. Convocati. 8 anni, non, esatto, io non riesco 100, a dare 38 kg, ne avrò presi altri 23-25, quindi sarà tutto molto bello. Allora, strade, poi torniamo. 800240024. Già moltissimi ascoltatori in onda. Onda, sì. Il Milan ha presentato Onda, è il secondo motorino a entrare a San Siro, scrive un ascoltatore. Allora, andiamo con le strade. Va. Tutti convocati. Adriano, provincia di Rimini. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Buon Ahimè, io sono un interista abbonato allo stadio. E volevo dire alcune cose sulla Beniamata. Cioè, innanzitutto, prego. In un momento di austerity finanziario, gli ultimi acquisti dell'Inter praticamente non giocano. Si sono investiti, si fanno i calcoli da Pereira, Kovacic, Guarina, Schelotto, non so quanti soldi, e non abbiamo i soldi per comprare un D'Ambrosio che chiaramente non so quanto possa alzare comunque il livello della squadra. Però Adriano, bisogna subito fare un distinguo. Allora, i soldi per comprare D'Ambrosio dovrebbe metterli la nuova proprietà, questo è un altro, cioè da qui al futuro è una nuova proprietà, quello che accadrà è competenza di Toir. Diciamo, Toir i debiti ce li ha pagati e fanno parte del passato, e poi sicuramente ha ragione l'ascoltatore, cioè negli ultimi anni, insomma, acquisti particolarmente. Senti, ma però Guarin non lo metterei insieme agli altri. No, perché agli interisti non piace Guarin? No, non lo metterei insieme agli altri. Fra l'altro, è anche il giocatore al quale si è pensato per poter fare cassa, perché comunque ha delle offerte, e se ha delle offerte vuol dire che non è un brocco. Su questo non ci sono assolutamente dubbi. Altre situazioni, io credo che Alvaro Pereira sia stato forse il peggiore affare degli ultimi anni per l'Inter, per quel pochissimo che ha dato. Poi ci sono pure delle situazioni, non so, Jonathan quest'anno per esempio è risorto nella prima parte della stagione, ci sono magari giocatori che hanno fallito e ci può stare nella normalità delle cose. Sicuramente non è, gli ultimi anni non sono stati, ma insomma, voglio dire, non è che la vita è corsi e ricorsi, è cicli e tricicli, come diceva. Comunque sono stati acquisti sbagliati, su nell'anno, questo non ci piove, in cui, no? Nell'anno in cui l'Inter Moratti vende Ibrahimovic, lo fa benissimo al Barcellona, e poi va e compra Snyder, compra Lusio per 3 milioni e quell'anno lì ha fatto solo affari e ha vinto tutto. Se ti ricordi chi comunque dettava il mercato dell'Inter, no? Perché? Perché? Ha anche preso Quaresma, perché? Ha preso Quaresma, sappiamo vita, bene storie. L'approccio con la vita matematico, nel senso, tu fai 100 acquisti, poi è chiaro che se 80 vanno bene e 20 vanno male sei felice, se 20 vanno bene e 80 vanno male, certo, sei triste. Però è statistico matematico, anche perché quando hai uno bravo spesso gli acquisti li indovina e magari vinci gli scudetti. Ma questo è evidente. Fabrizio, provincia di Ancona. Sì, ciao, buongiorno, buon anno a tutti. Buon anno. Un paio di considerazioni veloci. La prima sui Cardi, che non so quanto è stato pagato, 17-18 milioni di euro, quello che è, e mi risulta che nella sua folgorante carriera abbia fatto sì e no 4 gol alla Juve e basta. Belfodil valutato il doppio di Cassano, e Onda, al quale danno il numero 10 e nella sua squadra di Mosca aveva il numero 4. E sì, voglio dire, queste questioni alfanumeriche, il numero di Onda vale per il merchandising. No, vale per il merchandising giapponese, benissimo. Galliani è un maestro in questo, e io pensavo che fosse dimissionario. A me, ma 10 sulle spalle di Onda, metti i brividi, quel numero sulle spalle di Onda, maglia rossonera numero 10 sulle spalle di Onda, ma metti i brividi. Onda è un ottimo giocatore. Sì, vabbè, no. Maglia numero 10. Certo, non è Rivera, neanche Gullit. Ok, va bene. Stanno arrivando dei campioni del mondo dell'82, davvero? Segnalo, sì, si stanno adesso, stanno ci stanno arrivando, per, sì, si stanno arrivando, stanno arrivando. Ecco, apriamo la porta, ecco. Vediamo. Sì. Fai la telecronaca dell'ingresso. Sì, secondo me hanno sbagliato strada, vanno dritti, invece no, noi siamo di qua, di là c'è una famosa grande, la famosa marca di oggetti di pelletteria straordinaria. Ciccio Graziani, ecco, facciamo un momento di Radio Verità. Ciccio Graziani. Non avete ancora il microfono. Mettiamo subito Ciccio Graziani, poi dopo abbiamo anche altri, prego, si sieda. Sì, c'è il treno, ecco. Diretta, siamo in onda praticamente. Ecco, Ciccio, grandissimo. Fra poco anche Antonioni e Marcolin, scatenati. Due minuti, poi va via. Perché sei qui, Ciccio, tu? Allora, sono qui perché ho dei miei amici che espongono delle scarpe. Non posso fare pubblicità, ma sono i fratelli Ortigni. Ecco, vabbè, insomma. e quindi sono andato qui a fargli una visita, ma nello stesso tempo si incontrano un sacco di amici qui. Ah, no, perché si incontrano un sacco, ho temuto che dicessi un sacco di amici, ex calciatori, arbitri, guardaline, se ne incontra di tutti i colori. Senti, non hai menato nessuno, no? No, assolutamente no. Che faresti se fossi Tohir? Domanda semplice. Se fossi Tohir comincerei a pensare che questa è una squadra che va rinforzata in questo mercato e soprattutto ci sarebbe da ridare un po' più di entusiasmo, perché quest'Inter mi sembra Inter triste, proprio a livello di collettivo, non vedo quell'entusiasmo, quella passione che invece le squadre devono avere, quindi il presidente deve intervenire anche sotto questo aspetto qui, che è importantissimo. Ma Guarin, se Tohir ti dicesse: guarda Ciccio, io ti do fiducia ma non c'è una lira, partiamo ovviamente, sì, ammesso e non concesso, sì, sacrificare Guarin, 15 milioni di euro, qualcosa di simile, insomma l'Inter dovrebbe recuperare per reinvestire, è qualcosa che si può fare? Si può fare, certo, a volte ci sono dei sacrifici su alcuni giocatori che vanno fatti perché possono far recuperare alla società dei soldi che poi possono essere investiti, ma lì bisogna essere bravi prima a vendere bene, soprattutto altrettanto bene, perché sennò poi si rischia che perdi un grande calciatore come Guarin e magari no. È un grande calciatore Guarin, non piace ai turisti, perché? Ma forse non lo so, a volte nascono quelle simpatie a pelle tra calciatore e tifoseria. Molto ovviamente questo per lui non è nato a Milano, però secondo me è uno dei più forti giocatori che l'Inter c'ha, e non solo. C'era stato anche quell'episodio Inter-Fiorentina, ti ricordi? Con quella... Salutiamo Ciccio, che sennò perde il treno. A che ora è il treno? Alle 3.02. Vai, ciao, alle 3.02? Ciccio. Vi voglio bene. Ma corri, ma che stai a fare la radio? Alle 3.02 c'è il treno, Ciccio, ma vai! Ma fra 10 minuti, ciao, non ci salutare. Per voi queste date. Grande vabbè, però... Grazie Ciccio Graziani, fra poco Giancarlo Antonioni e Dario Marcolin, possiamo già farli sedere. Giochi in casa. Non, ecco, siamo, ciao, in diretta, ecco. Insieme. Andiamo avanti fino alle 3.20, voi avete treni, no? Giancarlo è Firenze. So che fra l'altro Renzi mi ha parlò Tiki Taka, popolare programma Italia 1, che ci sarà quest'anno una celebrazione per il tuo compleanno speciale. Sì, ho capito, ma io volevo mantenere un po' il segreto, però ci sarà una specie di arrivato qui, poi Pardo. Non si dice l'età. No, non si dice l'età, ma ci sarà festa cittadina tutta Firenze, Firenze. No, ci sarà la statua. Noi ci siamo? Noi ci saremo. Quando è il giorno esatto? È uno scherzo di aprile, primo di aprile, quindi mi ricordavo bene. Quindi ci fermiamo qui, direttamente, cosa dici? Sì, possiamo stare cosa qui. Torniamo a fare a Milano? Aprile. 4 mesi via. Senti, una cosa su Pepito Rossi, poi adesso avremo tempo per approfondire gli argomenti. Ci racconti proprio da cronista l'umore di Firenze in queste ore, perché insomma è sembrato uno shock quasi psicologico, no? Collettivo. Firenze è abituata purtroppo a queste situazioni, sai, perdere Pepito Rossi, che oggi è considerato uno, forse il miglior giocatore italiano, per una squadra è deprimente in questo caso. E poi la Fiorentina aveva già il problema Gomez e quindi si è amplificata questa situazione. Purtroppo adesso in squadra ci sono poche punte. E adesso ne serve un'altra. Chi prenderesti? Quagliarella, Jovetic, Vucinic, ci sono tanti nomi che si fanno in queste ore. Ci sono giocatori bravi in giro, però a questo punto non è facile nemmeno poter inserire un giocatore. Quei nomi che hai fatto sono ottimali, penso, però non so se la Juve ti dà Quagliarella a te, che si mette un po' in concorrenza. Vucinic o Muriel, forse, a me piace molto Muriel. Udinese se si potesse, non sta facendo la stagione dell'anno scorso, potrebbe ricominciare già a vendere l'argenteria. Tu Dario, chi prenderesti davanti al posto di Rossi? Jovetic potrebbe tornare, secondo me ha il vantaggio di conoscere l'ambiente, lo spogliatoio, l'allenatore, potrebbe essere il valore aggiunto. Ho visto un'intervista di Montella ieri che diceva che le porte, uno spiraglio c'è per questa operazione, quindi forse possiamo vedere questo ritorno. Noi abbiamo cose da fare, tipo il GR, perché tu sei quello che sale. Abbiamo 4 minuti. No, io volevo invece chiedere a Dario, far fare anche a Dario, dopo che a Ciccio Graziani, faccio fare anche a Dario il mercato per l'Inter. Voglio fare a Marcolin il mercato dell'Inter. Ho sentito come quello abbiamo che hai fatto detto con Tohir. Hai sentito? Ho sentito. non è un segreto. No, Ciccio ha detto una cosa giusta su Guarin, che probabilmente il feeling con la tifoseria interista ancora del tutto non è scoppiato, al di là del fatto che non credo che la società lo possa mettere sul mercato per questo feeling non feeling, però un sacrificio va fatto. Forse Tohir potrebbe anche tenere Guarin e inserire qualche giocatore se volesse fare una super Inter, perché ricordiamoci che per gli allenatori più giocatori hai e meglio è, hai la possibilità di poter scegliere. Manca un po' di qualità in mezzo, Giancarlo, all'Inter, insomma tu sei stato uno dei dietro, massimi in mezzo e davanti, no? Della figura di un centrocampista alla Pirla, all'Antonio, insomma, un giocatore... c'è, secondo me c'è un giocatore bravo che non gioca mai. Chi è? Kovacevic. Però non lo fa giocare. Appunto, è un giocatore di qualità che stranamente non gioca. Però sai, questi giocatori un po' fantasiosi oggi non giocano da nessuna parte. Tu in lui vedi le qualità, sì, giuste, molte qualità. Sì, perché è l'unico che dribbla l'uomo innanzitutto. Che sa dove metterla. Che oggi è alla base di tutto, è veloce, rapido. E poi sa dove mettere la palla e riesce anche a fare qualche gol se gioca dalla, certo, panchina. Credo un po' dalla panchina è dura. Senti, però poi altre cose, vabbè. Facciamo così: Ugo dalla provincia di Lecco fa una domanda e sentiamo la risposta di Antonione e Marcolino. Vai, Ugo. Perfetto, vai. Ugo. Buongiorno a tutti. Ascolti, a me le domande sono state bruciate perché in attesa le domande che volevo fare avete date risposte. Una veloce, quindi, ne faccio una veloce. Sì. I presidenti che hanno due società in Italia, tipo Salernitana e Lido, che speranze, sì, che ambizione può avere una società che viene gestita da un presidente che è già una squadra di Serie A? Non sembra un destino già predefinito. La piccola, che ambizioni può avere? Non lo so, però forse quando dovrà fare il salto vero e proprio di qualità potrebbe esserci un problema di conflitto, però in realtà se hai due società puoi avere anche delle sinergie come fanno i Pozzo per esempio in Spagna, perché all'estero funziona, no? Magari hai subito la società grande che ha dei giocatori interessanti che non riesce a far giocare, vedo Dario che annuisce, può essere anche un'occasione. Ma è vero, anche perché vedo che tanti giocatori della primavera della Lazio vanno a finire a Salerno, questo può essere, come dicevi tu, una sinergia per queste squadre magari che cercano di salire, anche se sappiamo che la Salernitana probabilmente più che i giovani ha bisogno di giocatori importanti per poter risalire in Serie B. Sì, anche perché poi c'è un passato anche abbastanza recente in Serie A. Ma diciamo è il mio settore, tra l'altro i giovani sono proprio quelli che seguo io, di conseguenza è una scelta giusta secondo me, quella di avere una squadra satellite dove te puoi collocare i tuoi giocatori, certo, che hai, quindi meglio di così. Certo, a me sembra una strategia di grande intelligenza. Giusta. Sì, in effetti è vero. Allora, io ho il GR. Sì, non voi, se avete il treno pure voi? Roba, sì, di io treno. L'aereo, no. Scusate, l'aereo fino che sorvola le colline. Sorpresa dopo il GR. Dovrei andare a Coverciano. Dovresti andare a Coverciano. Va bene, allora GR, poi vediamo. Poi ci vediamo. Saranno ancora oppure li salutiamo intanto qua. Convocati. Allora torniamo sempre qui da Pitti, dove saremo anche domani. Io e Pierluigi Pardo. Ho appena degustato un olio meraviglioso. Non me l'hai portato. No, l'hai degustato pure tu. Chianti. L'hai degustato pure tu. Ho bevuto proprio l'olio, l'uccino d'olio con tanto del buonissimo. Veramente. Allora, prima c'era un ascoltatore che ha detto che ha preso un giorno di ferie per venirci a trovare domani. Dove vi trovo? Ha scritto, ci trova a Pitti. Sì, chieda di noi. Aspetta che ti pesco il portone. Davanti all'ingresso principale. Dica che la mandiamo noi all'ingresso. Sì, dica, sì, esatto. L'aspettiamo qua. Dica. Fabrizio, dov'è? Scomparso. Fabrizio. No, non c'è, è sparito. Dove è andato? Non lo so, sono questi scherzi della... Di cosa stavamo parlando con Antonio? Fiorentina sostituti di... Di Giuseppe Rossi, ma Mario Gomez? Mario Gomez è veramente un mistero. Allora, lanciamo un appello. Portateci Mario Gomez, o quantomeno visto che siamo a Firenze, notizie di prima mano su Mario Gomez. Tu chi vedresti? Jovetic mi sembra davvero, al di là della scienza fantascienza, il ritorno di Jovetic mi sembra davvero follia. Beh, follia, è affascinante, insomma, bisogna pensare in grande. Jovetic non è riuscito a fare il fenomeno come sperava a Manchester e può diventare anche un'occasione, insomma, per il City per alleggerirsi almeno dello stipendio e per la Fiorentina per tamponare un problema. Perché no? Insomma, io credo che noi Mai come quest'anno ci sono tanti giocatori che hanno voglia di mettersi in evidenza, insomma, ci sono tanti giocatori anche importanti però, che c'è sono in difficoltà. C'è un passato, c'è un pregresso, insomma, sì, non è semplicemente un pregresso. Non è andata la Juve, Jovetic dalla Fiorentina, per cui dice c'è una grande rivalità, è andata al City per una questione economica, venduto bene, insomma, non, io sinceramente penso che è un'ipotesi interessante. Fabri, a me piange il cuore. Quagliarella in panchina, anche secondo me lo spreco, ragione. Ma anche Vucinic è un giocatore, io ho un debole per Mirko Vucinic, però Vucinic è stato male e ha dato, ma in questa Juve non trova spazio, però Pier, dopo l'esplosione di Llorente non trova spazio, in questo momento con Llorente che gioca così Vucinic è in difficoltà e Conte sta avendo ragione, non è che c'è grande discussione su questo, però è stato fermato dagli infortuni. Quagliarella invece è un giocatore che è stato sul punto addirittura di partire in estate e che quindi insomma era veramente dietro nelle gerarchie e che secondo me con un altro allenatore, con un altro tipo di contesto potrebbe essere un giocatore imprescindibile. Io vorrei provare il casco da bici di quel signore lì davanti a noi, blu con i colori dell'Iride. Bellissimo, complimenti, ci sta guardando, sorride, complimenti, ciao. E tra l'altro bellissimo il casco dell'Inter, mi sembra. No, ha un casco che può essere di tutto il mondo, compreso della nazionale giamaicana. No. Mi sembra, sono più colori della Giamaica. Dice delle cose tipo bella bici, tra l'altro. Sì. Gran bella bici. Fabrizio, provincia di Ancona, eccolo qui. Sì, sono tornato. Eccolo qui, è tornato. Dove eri andato? No, che era stavi facendo? Precedenza Graziani. Antonioni Marconi, sì. Avrà preso il treno, secondo me no. Guarda, no, secondo me era perso. È uscito adesso, 14:50, adesso lo chiamiamo. 14:53, ma come ha fatto? È vero che siamo attaccati alla stazione, però insomma, Graziani, ci vuole Graziani dell'82, ecco, con una corsa, con una buona progressione. No, con la spalla non fasciata, però, sennò esatto, è un problema. Magari, magari. Cosa ne pensi dei mondiali d'inverno? Io penso che il potere del denaro è allucinante. Certo, se no non li facevano in Qatar, voglio dove dire. Giocano in 5 a pallone, esattamente. Quindi, sì, forse però, in 4. Forse in 4, sì. Uno sta in porta con lo scarto, però. Uno sta in porta, certo. Portiere volante. Volevo solo una vostra opinione su questo. Non ho seguito qualche giorno fa la trasmissione. Alcuni commenti dopo Juventus-Roma, io penso che siano stati al limite veramente dell'incompetenza da parte di alcuni giornalisti, a mio modo di vedere. Secondo voi, come avete, tipo Paolo Liguori, che è fazioso ovviamente, però provoca anche delle reazioni da parte dei tifosi che possono portare anche a ulteriori problematiche all'interno degli stadi. Parlare con te, mi sono già reso conto che sei una persona di estremo buon senso. Io non condivido mai questo parallelo, cioè uno dice una cosa e i tifosi devono menare le mani. Non esiste giustificazione, no. È vero che ci sono menti deboli, però non può essere mai una giustificazione quello che dicono giocatori, giornalisti, opinionisti. Non voglio credere in questo. Lo show Liguori Mughini è stato fantastico. Ma sì, show. Poi posso capire che insomma c'è chi la pensa come Liguori, c'è chi la pensa come Mughini. Io credo che il successo della Juve l'altro giorno sia stato evidente, netto, e che abbia ragione Mughini nel dire che non conviene alla Roma farla troppo lunga sulla partita dell'altro giorno. Perché gli episodi, certo, secondo me l'unico vero episodio sul quale si può un po' discutere avviene sul 2-0, cioè ci potrebbe essere un fallo di Bonucci su Castan, ma la partita era già 2-0 con la Roma in 10 contro 1. Non è stata una partita da episodi, assolutamente. È stata una partita dominata dalla Juventus a prescindere dagli episodi, e in questo caso io credo che chi ha diretto quella partita, Rizzoli, tra molta prevenzione. La diretta nel migliore dei modi, non è stato ininfluente come deve essere sempre un arbitro. C'è ancora Fabrizio? No, ci sono. Ah sì, ecco. E che allora? Poi ovviamente se... Pronto? Sì, siamo qui. Siamo qua. Sì. No, ovviamente se io non voglio dire che quello che dice Liguori provoca azioni dei tifosi. Io dico che siccome già siamo un popolo di ben pensanti e tutti pensano che la Juve abbia rubato 29, 30, 31 o quanti scudetti sono, nel momento in cui una squadra come la Roma, quest'anno che non se l'aspettava nessuno, io per primo, si trova a combattere comunque per le posizioni di vertice, perdi una partita, la perdi alla fine anche male, perché quelle reazioni di De Rossi non sono assolutamente inutili anche da parte di un nazionale. Invece di dire ok, concentriamoci, abbiamo 60 punti come ha fatto Garcia, che ha detto esattamente queste parole, ci sono ancora 60 punti, ci troviamo De Santis ha intervistato a Sky che dà ragione a Totti alle sue chiacchiere da bar, e Liguori che fa una invettiva contro il sistema Juve, e io penso che se tu chiedi a un tifoso romanista oggi ti dice che la Juve ha rubato anche la partita di sabato o domenica, ma non un tifoso romanista normale, cioè uno sportivo, un osservatore di calcio, cioè. Però insomma io dico anche che c'è una sana libertà pensiero, ma naturalmente. E poi le discussioni sono il senso anche anch'io onestamente questa cosa qui del lavoro che facciamo, questa cosa qui, cioè si discute in tutti i bar d'Italia senza menare le mani, cioè, e la discussione anche quella accesa, l'altro giorno Liguori diceva voglio fare la figura del babbeo, cioè era lui il primo che si prendeva un po' in giro per questa cosa, no, in questa sua provocazione, secondo me era abbastanza chiaro, abbastanza evidente l'intento provocatorio, per cui alla fine secondo me dovremmo recuperare, chiaramente poi se uno non è tifoso, non è molto tifoso, questo concetto è molto più facile da gestire, ma dovremmo recuperare la leggerezza di poter farci quattro chiacchiere con... che questo porti all'odio. Guarda, io ricordo poche affermazioni del passato, una di quelle che più mi sono trovato a condividere fu una di Mancini, sì, quando in campo non ha senso, perché il senso del calcio sono le discussioni che ci sono intorno al calcio. Ma avete visto l'abbraccio fra Totti e Buffon a inizio partita? Allora, ma poi quelli che mi dicono De Rossi, no, De Rossi è entrato in maniera premeditata su Chiellini, questo ma io non lo credo. Molto male, magari poca, però insomma sicuramente non c'era la premeditazione. Volevo dire che l'abbraccio fra Totti e Buffon a inizio partita ti fa capire che Buffon in quel momento era arrabbiato per la dichiarazione di Totti, ma assolutamente no, cioè sono piani, sono discussioni, ma poi c'è una realtà più grande, che è quella del rapporto fra i grandi campioni, che è quella per la passione per questo gioco, questa roba qui o ce la ricordiamo e la mettiamo soprattutto perché è la cosa più importante che abbiamo, o se no finisce tutto. Però allora il calcio diventa un pretesto per odiarsi, ma no, se ami il calcio, ma nel calcio sai che la discussione da bar fa parte del gioco. Scusa Pier, ma sono quelli che gli americani e gli inglesi chiamano mind games, che fanno parte della preparazione, esatto, della partita psicologica, che fanno esatto. E quindi sono, a me piacciono molto, tra l'altro, queste, queste discussioni. Esatto, e infatti io adoro Mourinho. Corrado Verona, buongiorno. Eccomi qua, pronto? Pronto? Sono in diretta? Sì. È in diretta? Buongiorno. Buongiorno. Niente, io volevo ritornare all'Inter. Sì. Una nota dolente. Dica. Niente. Sento sui giornali che dice che Tuir va avanti col suo piano, perché cioè che la sconfitta di domenica non conta niente, va avanti col suo piano, però io non lo so voi, devo ancora capire qual è questo piano. Bravissimo, è quello che stavo dicendo io. Oppure prima o dopo lo dovrà spiegare a qualcuno cosa vuole fare. Sì. Guardi, da quello che abbiamo capito il piano a gennaio è costo zero o quasi. E il piano B? Il piano B non c'è. Piano B non c'è, ragazzi. Cioè, ma scusami, ma ti sembra normale dire vabbè, abbiamo perso 1-0 a Roma contro la Lazio, allora cambiamo tutto? Cioè, non, il problema vero è che non si conoscono le linee di questo ribadisco piano. Che purtroppo per l'Inter la sconfitta dell'altro giorno non è una sconfitta che spinge i dirigenti a fare di più, perché siccome il grande obiettivo economico è la Champions, è molto più difficile rispetto a due mesi fa per l'Inter centrarla, per cui l'investimento che devi fare per avere la certezza o comunque ottime possibilità di andare in Champions è cresciuto rispetto al passato, per cui può essere un paradosso rispetto al tifoso che dice ma la squadra va male, bisogna comprare. Sì, è vero, la squadra va male, bisogna comprare, ma la squadra è più distante dall'obiettivo che economicamente può essere interessante. Però è un cane che si morde la coda, perché se non investi non ci arrivi mai, perché non sei competitivo, lo so, eccetera, ma infatti, eccetera, eccetera. Ma infatti la strada è stretta, poi vediamo, magari adesso Tohir ci smentirà, Il progetto, sì. Il progetto è un progetto, mi sembra, imprenditoriale, economico, importante, con le spalle larghe, si è accollato un sacco di debiti. Mi sembra che un po' come era successo in primi tempi con la Roma, non è che ci sia l'Abramovic di turno che viene, il Paris Saint-Germain che pare abbia questo progetto da 500 però, milioni. Però alla Roma gli americani hanno preso Sabatini e hanno detto vieni qui, dacci una mano, aiutaci a fare mercato all'Inter. Qual è, chi è Sabatini dell'Inter? Lo scopriremo. Questo, no, lo scopriremo, avremmo già dovuto saperlo, secondo me, con sì, una è vero pure gestione che, sufficientemente lungimirante. Il closing di Toir è avvenuto a campionato in corso. Per sono cui... d'accordo, però sai, è una trattativa che va avanti dall'estate, quindi tu devi avere il piano, cioè devi dire ok, io arrivo, prendo la società, l'uomo di riferimento italiano che conosce il calcio italiano è quello, allora sei pronto, dobbiamo scattare fuori di qui perché arriva Giuseppe Tedesforo, dobbiamo toglierci la svetta, un minuto di pausa e poi Giuseppe Tedesforo in onda, andiamo a fare un giro per gli stand, cosa facciamo stasera? C'è Toir e Juventino, il nostro cavallo di Troia, dice Marco. No, il figlio di Toir, abbiamo scoperto, Garibaldi è confessato che è Juventino. Va bene. La Viola, ci scrive Michele. Domani siamo ancora qui da Pitti. Sì, stasera sì, mi porti sì. A spasso, facciamo un giro. Stasera si fa qualcosa... così. Si fa prima di tutto 2 kg, 2,5 kg di chianina ribollita. Questo per cominciare. Poi se sarete in grado di a quel punto. Allora, domani ci siamo. Fuori. Ciao, salutiamo anche fuori. Arrivederci. Ciao.